24 mattino. Ministra Fedeli, l'alternanza scuola-lavoro così com'è non funziona, mi sembra chiaro, no? Perché... Ma come non funziona? La sto facendo anch'io. In che senso, scusi? Perché a quest'ora io avrei dovuto essere a scuola per finire le medie. Cosa? Ma cosa stai dicendo? Però ho approfittato di questa possibilità per fare un po' di esperienza da ministro. È fantastico, Crozza, sempre in grado di cogliere l'attimo, l'istante, il tic, e oggi la Fedeli è su tutte le prime pagine per questa vicenda dei bambini accompagnati. Ora direte, ma come, ci sono tante cose importanti, apri su una notizia di cronaca? Beh sì, perché è la cronaca che cambia il costume, come ha scritto un nostro ascoltatore poco fa in un messaggio dicendo: i nonni non potranno andare a prendere i figli e i nipotini, come immagina la ministra, perché sono ancora al lavoro. Allora Gianna Fregonara ci spiega cos'è successo. Fedeli e i figli da prendere a scuola aspetta i genitori, lo dice la legge. La ministra dell'istruzione parla a Tagadà e dice dei tredicenni, della loro uscita da scuola, forse si occuperà il Parlamento. Difficile dire se questo o addirittura il prossimo, sentite, scrive la Fregonara. Ma intanto i genitori, nell'attesa, dovranno farsi carico di riportarli a casa alle 2 del pomeriggio ogni giorno. Lo dice la legge, ha spiegato la ministra Fedeli, intervistata dal programma della 7. E anzi ha avvertito, attenzione a non far diventare questo caso un elemento di non assunzione di responsabilità da parte dei genitori nei confronti della legge. A me pare che sia un tema grosso oggi. Però iniziamo con le copertine, i titoli, le prime pagine dei giornali, proprio dal Corriere della Sera, dominati ovviamente dallo strappo del Presidente del Senato. E quindi l'apertura del Corriere è sì definitivo la nuova legge elettorale, ma Grasso, a sorpresa, abbandona il PD. Il pezzo portante di Monica Guerzoni in questo partito, le parole di Grasso, non mi riconosco più. E poi c'è l'editoriale di apertura di Federico Fubini, la scelta giusta per il paese, e si riferisce al rinnovo di Visco. Bellissima la vignetta di Giannelli, fatemela leggere. Mosca cieca, sapete che c'erano le bende dei 5 Stelle, c'è Gentiloni bendato che tasta un uomo in volto per riconoscerlo, credeva fosse Rosato, invece era Verdini, e infatti l'uomo è Verdini. Il Sole 24 Ore, BCE dimezza il finanziamento, il cannone di Draghi, ma lo prolunga, euro in caduta sotto 1.17 dollari, borsa in rialzo, calano gli spread periferici. Poi vi leggerò una cosa importante sulle conseguenze riguardo alla vita di tutti i giorni, proprio dal Sole, riguarda i tassi dei mutui. Il Giornale, violenze no Expo a Milano, indagati i poliziotti che fermarono i teppisti. Il fondo del Giornale invece, il giudice ammazza Cavera in piazza coi grillini, è in pensione, si tratta del famoso Antonio Esposito, presidente medico di Cassazione, che ebbe polemiche furibonde con Berlusconi per una sentenza. Il Rosatellum sono io, Verdini, scrive al Tempo, l'apertura del Giornale Romano, i leader di ala decisivo sulla riforma elettorale mi fanno passare per uomo nero, ma la verità è che io ho salvato questo paese. Ale! Gazzetta dello Sport, bellissima, Napoli, Inter, Juve e Lazio nello spazio di 3 punti, goleador scatenati, spettacolo, stadi più pieni, il campionato si fa vincente aspettando la Roma. Corriere dello Sport, adesso basta, è un grido di protesta per un infortunio, chi non segue il calcio non lo sa, il 12° giocatore della Roma con la lesione al crociato, i preparatori sotto esame. La Verità, colpo di mano su Jussoli e fine vita. Grasso molla il PD e cerca una poltrona. La maggioranza con Verdini e Bersani approverà a suon di fiducia le due leggi invise a tutti gli italiani. Il presidente del Senato insegna il trucco per zittire le opposizioni. Renzi spera di riconquistare i voti della sinistra in vista delle elezioni, ma rischia di schiantarsi, bel Pietro. Il Fatto Quotidiano, si vota a marzo, Grasso molla i Dem, Verdini no, questa è carina. E poi addio tagli, nuovo emendamento di Sposetti, per noi la pensione è slitta a 67 anni, dice il Fatto, ma il PD e Forza Italia vogliono il vitalizio a 63. Il Foglio apre sull'offensiva irachena contro i curdi e ovviamente ci dispiace perché ci hanno liberato dall'ISIS. La Stampa, strappo di grasso, il PD senza futuro, è il titolo del quotidiano piemontese. E il Messaggero, resta Visco, sfida sulle nomine, e la BCE dimezza gli acquisti di titoli pubblici, segno di fiducia il fondo di Giulio Sapelli. Libero, libero, quote Rom nella polizia, ennesima follia dell'Europa, risoluzione dell'Europarlamento, incoraggiare l'assunzione di nomadi fra i membri delle forze dell'ordine e nei mezzi di informazione pubblici, garantendo ai loro rappresentanti posti perfino nella TV di Stato. Fabio Rubini, l'apertura di Libero, pagina 3. Uscita di sicurezza il giorno, scuola media, l'apertura, il ministro Fedeli, studenti fino a 14 anni, serve un adulto che li riprenda a fine lezione, lo abbiamo appena letto. Il Messaggero, resta Visco, sfida sulle nomine. Repubblica, Banca Italia, lo strappo Gentiloni-Renzi, Grasso, PD irriconoscibile, me ne vado. Due partite senza vincitori e il fondo di Giannini e la favola nera del risparmio, Francesco Manacorda. Quindi, come capirete, c'è molto da dire e da leggere, e ovviamente dobbiamo partire da questa vicenda. L'effetto postumo della fiducia è stato le dimissioni del presidente del Senato dal gruppo del PD, e adesso di questo si discute per gli effetti che può avere. Molti giornali, anzi quasi tutti, ipotizzano già il suo approdo possibile, la candidatura al leader, per esempio lo leggo su Carugati, il retroscena di Carugati sulla Stampa, leader della neonata formazione di sinistra che mette insieme MDP, Sinistra Italiana, eccetera. Politicamente e umanamente la mia misura è colma. Poche ore dopo il sì definitivo del Senato alla nuova legge elettorale, Pietro Grasso lascia il gruppo del PD. Una notizia inaspettata, non prevedibile, confida il capogruppo Dem Luigi Zanda, cui Grasso ha telefonato pochi minuti prima di ufficializzare la sua scelta. Il Rosatellum, approvato con 5 voti di fiducia nella aula di Palazzo Madama, è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La molla, scrive Carugati, che ha spinto l'ex magistrato entrato in politica nel 2013 con il PD di Bersani a lasciare il partito di cui non aveva mai preso la tessera. Non mi riconosco più nel merito e nel metodo di questo PD, dice Grasso, vedo comportamenti che imbarazzano le istituzioni e ne minano la credibilità e l'indipendenza. Non mi riconosco nemmeno nelle prospettive future. Beh, vi siete fatti un'idea, ci fermiamo per la pubblicità ed entriamo nella rassegna. Ma voi veramente non state bene, fatevi vedere, io ve lo dico fraternamente. Ma vi volete rilassare? Mannaggia. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Dottor Jay e Mister I. Trasforma la tua azienda con Jay Galileo e Power 8. jaygalileo.com. Mattino. Eccoci. Lo sapete che Beppe Grillo vuole scindersi dal suo blog? Sì, come sapete il Movimento 5 Stelle aveva occupato la casella in cui del sito che aveva il nome di Beppe, e adesso lui vuole tornare autonomo. Ora, molti giornali si soffermano dando ampio spazio a questa scelta perché potrebbe essere simbolicamente l'anticamera di una scissione. Nei partiti si dividono i gruppi, qui si dividono i domini. Voci di divorzio con Casaleggio, scrive Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera, ma lui nega. Quanto mi costerebbe di alimenti? Dai, è troppo forte quando fa queste battute. Allora, il punto di riferimento dei 5 Stelle, il Corriere, pagina 10, cambierà appelli. Il sito di Beppe Grillo si staccherà, almeno nei contenuti, dal movimento. Tornerà a essere una vetrina autonoma del Garante. Un passo obbligato, secondo le voci che circolano fra i pentastellati, voluto dallo stesso Grillo, che è orientato a dividere il lato politico dei suoi impegni con quelli legati al mondo dello spettacolo. Si tratta di un passo in atto da tempo, nulla che non sia stato concordato, commentano i 5 Stelle. Grillo ora non è più il capo politico ed è giusto che si creino due percorsi distinti anche sul web. Però attenzione, scrive Buzzi sul Corriere, in realtà lo showman aveva già tentato una strada simile con un blog parallelo pubblicato sul sito dello spettacolo Grillo contro Grillo fra maggio e luglio 2016. Una decina di posti in tutto con argomenti nelle corde del Garante: reddito di base in Svizzera, microcredito, auto più ecologica del mondo. Un tentativo, quello del blog parallelo, abbandonato in primo luogo per la necessità di tornare in prima linea. E insomma, scopriremo solo col tempo se questa se questo passo è confermato dalle voci di una rottura con Casaleggio oppure se è una scelta meramente professionale. Però è una notizia molto importante, fa bene il Corriere a dedicargli una pagina. Rosato, parla Rosato. Sapete che ieri si discuteva, Travaglio ironizzava sulla simulazione secondo cui Rosato non sarebbe eletto, perché in quel collegio vincerebbe il centrodestra in Friuli con la sua legge, col Rosatellum. E allora lui parla, Giovanna Casadio di Repubblica, e si arrabbia anche: mi candiderò a Trieste, la mia città, sì vorrei, però decide il partito. Ettore Rosato, l'ideatore della nuova legge, Repubblica, stiamo parlando di pagina 6. E non teme il danno e la beffa di perdere il seggio. Appena il Rosatellum ieri mattina è stato approvato al Senato ed è diventato legge, il capogruppo Dem a Montecitorio ha ingaggiato una scommessa coi deputati di Campo Progressista, il Movimento di Pisaria. Insieme vinciamo in almeno, pensate, 90 collegi su 232. Chi lo dice? Le simulazioni di queste ore. Guardi, dice Rosato alla Casadio, ci si candida anche nei collegi più difficili. Trieste lo è, d'accordo, ma lavoreremo tutti per fare i migliori risultati. Ma attenzione, la Casadio, che conosce la legge, gli ha detto: potrebbe esserci per lei un paracadute con un posto anche nei listini proporzionale? E lui: non esistono paracadute, anche chi è candidato nei collegi plurinominali deve sgobbare perché bisogna prendere voti, quindi userà il paracadute. Io capisco questo, credo questo. Allora, vi dicevo, sempre su Repubblica, il ritratto di Verdini, Mefistofele, una paginata di Filippo Ceccarelli, ve lo cito soltanto: cinismo e furbizia, Verdini, il Mefistofele del potere girevole. Però la cosa divertente è che ieri si è paragonato a Mr. Wolf, ve lo ricordate quello di Pulp Fiction? Il mio nome è Mr. Wolf, risolvo problemi, grande Harvey Keitel. Non molestato da Weinstein, speriamo. Allora, la notizia però più importante dal punto di vista degli assetti economici e finanziari è sul Sole 24 Ore ed è quella della riconferma, cioè è su tutti i giornali ovviamente, ma la prendo dal Sole, ed è quella della riconferma di Visco dopo lo scontro durissimo fra Renzi, Gentiloni, il Quirinale, lo scontro a tre. Ecco che cosa è successo: la lettera di Gentiloni, scrive il Sole, indica solo il nome del governatore, oggi il Consiglio Superiore della Banca, il Consiglio dei Ministri, poi il decreto promulgato da Mattarella. Allora, Colombo e Patta, pagina 5, e poi l'editoriale di Lina Palmerini. Nella giornata di ieri sono arrivate a conclusione due vicende, la nomina di Visco, l'approvazione della legge elettorale, molto diverse fra loro, eppure con un tratto comune: l'alta tensione fra politica e ruoli di garanzia. Gli attacchi di Renzi al governatore dei 5 Stelle al Colle raccontano come i politici cerchino di forzare i garanti e facciano fatica a rispettarne le competenze. Quindi attenzione, perché questo è sicuramente editoriale e in notizia su come si è arrivati alla riconferma sono un passaggio importante. Allora, parlavamo di Renzi, è accaduta questa cosa che è salito, c'è la foto, è salito sul pulpito e ha parlato in questa chiesa. Ora, È un fatto senza precedenti. E allora Gramellini lo chiama Don Matteo. Il caffè di oggi, era un po' che non leggevo un caffè. Vai, vai! Chi avrà suggerito a un omino riservato come Renzi, scrive Gramellini, Corriere pagina 1, di tenere un comizio dentro una chiesa all'insaputa del parroco e del Padre Eterno, l'unico candidato che il PD avrebbe qualche possibilità di fare legge nei collegi del nord di Bologna con la nuova legge elettorale? Sceso dal treno con cui sta battendo l'Italia alla ricerca dei voti perduti, Don Matteo è apparso sull'altare della Basilica di Paestum, teoricamente riservato a un evento di turismo archeologico. Indossando giacca e maglioncino da Monsignore in trasferta, ha commentato con i fedeli alcuni passi del Vangelo secondo De Luca, il governatore simbolo di temperanza che sedeva nelle prime file dei banchi di solito riservati alle vecchine. Lo avesse fatto l'unto del Signore, suo futuro alleato, non si sarebbe parlato d'altro per 3 giorni, fino a resurrezione avvenuta. Ma neppure i democristiani della Prima Repubblica si erano spinti a tanto. Quella era gente che in chiesa ci andava solo nel tempo libero per parlare con Dio e sotto elezioni col prete. Mai però al posto del prete. L'unico precedente autorevole rimane, eccetto la qualunque. Beh, perfido, ma divertente Gramellini. Chissà cosa avrà convinto il profugo di Palazzo Chigi a scacciare i mercanti di Banca Italia dal tempio per occuparlo con la forza dei 1000 ex Boy Scout? Potrebbe trattarsi di una vocazione tardiva? Accettata con cristiana sopportazione l'impossibilità di tornare al governo, Don Matteo sente il richiamo di una nuova missione: rottamare la curia, introdurre il culto di Maria Elena Addolorata e dare gli 80 euro di elemosina a ogni chierichetto, con l'esclusione di orfini che tanto li perderebbe. Papa Francesco, stai sereno. E vabbè, siamo a livelli altissimi, ma poi si può pensare qualunque cosa, ma quando uno scrive così siamo veramente ispirati. Allora, 3 notizie molto importanti di cronaca. Allora, è tornato, ve lo ricordate? Cecchini su tutti i giornali, quello, l'artista futurista, a 10 anni esatti dalla sua beffa, è tornato a tingere di rosso Fontana di Trevi contro la precarietà. E io vi faccio un mix strano fra il fascio futurista Cecchini e il più grande intervento oggi contro lavoro nero e precarietà. Sapete chi è? È di Papa Francesco, l'ultimo leader della sinistra nel mondo. Il suo video messaggio potentissimo alla settimana sociale da Avvenire nell'inserto speciale. È un video messaggio da leggere in integrale, però il titolo è questo. Guardate come parla il Papa, la foto, lui in mezzo ai caschi blu. Messaggio del Papa: lavoro nero e precarietà uccidono, senza occupazione non c'è nessuna dignità, lavoratori siate lievito sociale. E poi il mio pensiero va ai disoccupati che cercano lavoro e non lo trovano, agli scoraggiati che non hanno più la forza di cercarlo, ai sottoccupati che lavorano solo qualche ora al mese senza superare la povertà. A loro dico: non perdete la fiducia. Beh, grande Papa Francesco, meno male che c'è lui. E vi dicevo di Kennedy, se volete leggere i files dissecretati di cui parlavamo, pensate, 2 pagine intere le fa il giornale, pagina 14 e 15. C'è una vicenda invece divertente che da giorni non riuscivo a leggere, ma adesso posso intercettare, quella del cosiddetto professore porno gay. Era un attore, si chiama Ruggero Freddi, il suo pseudonimo è Masi, Corriere pagina 19. E dicevo, a pagina 19 c'è questa intervista, perché ieri i giornali di destra ironizzavano su questo pornoattore che fa il docente all'Ateneo di Roma, e oggi il Corriere un'intervista a Giovanna Cavalli: da star del porno a docente in Ateneo, gli studenti incuriositi ma rispettosi, Freddi a 3 lauree, sono preparato e non ho imbarazzi. Beh, dovete sapere, questa è la cosa divertente, che ha fatto un calco del suo strumento per donarlo ai posteri. Allora sicuramente questa è un'opera importante, avete capito, un calco per poter consegnare ai posteri, poter studiare l'anatomia e i corpi donati alla scienza. Ci fermiamo per le strade e torniamo fra poco. Ciao papà, sei obeso. Mattino. E allora al Festival di Roma sbarca un western dalla parte degli indiani di nuovo, con l'ex protagonista di Batman, Bale, che è un soldato razzista che deve accompagnare, scoprendo un nuovo mondo, dei Pelle Rossa. Questo solo per darvi l'abbrivio, perché dicono: non parlate di cinema. Sì, qui parliamo di tutto, però parliamo dei soldi. E allora qualcuno dice: ma Grasso non era candidato come indipendente, Giuseppe da Sesto San Giovanni? Sì, era candidato come indipendente, però il presidente del Senato ha diritto ad aderire ad un gruppo, e lui aveva aderito al gruppo del Partito Democratico, perché era stato eletto nel Partito Democratico. Da sempre i presidenti diventano figure terze, ma appartengono, come Casini, che era addirittura leader di un partito, appartengono a un gruppo parlamentare. Allora, vi dicevo, la BCE dimezza il cannone di Draghi, ma lo prolunga, e questo è molto importante. Sto leggendo Merli a pagina 2 del Sole, e ci sono, è una doppia pagina, per questo parto dal Sole, perché lo ha trattato ovviamente in modo più esteso, e in cui avete tutto il quadro: l'impatto delle mosse di Francoforte, l'annuncio di Draghi, uscita graduale e massima flessibilità. Saranno acquistati 30 miliardi al mese fino a settembre, ci racconta Merli, corrispondente da Francoforte del Sole. E poi però una nota molto importante di Moira Longo: il sollievo può non durare, bond del sud Europa penalizzati rispetto ai bund tedeschi. E anche qui c'è uno schema: nord Europa batte sud con le quotazioni e il differenziale. E poi un pezzo di Isabella Bufacchi che spiega la reazione dei titoli di Stato. Lo spread che misura il rischio Italia si è ridotto, chi nelle scorse settimane ha scommesso contro è rimasto spiazzato. Posso dirlo? Alle gufi! Questi sono i gufi veri, non gli altri. Però vi dicevo un pezzo che voglio leggere, perché Vito Lops, sempre sul Sole, e questa volta a pagina 3, ci spiega qual è la conseguenza proprio più vicina per le persone normali. Buone notizie per i mutui: tassi bassi, ma ancora per un po'. Ragazzi, se dovete comprare è il momento, non so se è chiaro, prima che il cannone finisca le munizioni è il momento per comprare. Dalla BCE arrivano notizie positive per le famiglie italiane, soprattutto, scrive Vito Lops, il Sole, pagina 3, per ciò che riguarda il settore del credito, il consumo e dei mutui. Difatti, la proroga ai 9 mesi della politica espansiva, e l'istituto ha annunciato che l'acquisto dei titoli, chiamato quantitative easing, non terminerà più a fine anno, ma proseguirà almeno fino a settembre, e questo continuerà e contribuirà a mantenere molto bassi i tassi delle obbligazioni e di conseguenza anche i tassi del mercato monetario, sia a breve termine che a lungo termine. Quindi Euribor, quel tassino importante che faceva salire o scendere il prezzo delle rate, viene ancora calmierato. Ciò vuol dire, spiega Vito Lops, che per i mutuatari, sia del partito a tasso variabile che di quello opposto a tasso fisso, così come per chi ha un prestito non ipotecario sotto le varie modalità di credito al consumo, l'attuale era dei tassi nominali ai minimi storici proseguirà senza intoppi. Perché l'atteggiamento ancora molto espansivo della BCE sta spingendo e spingerà ancora le banche a erogare condizioni molto favorevoli. Fino a quanto dura tutto questo? Finché dura il cannone, sicuro. Poi si vedrà. E allora è molto importante ovviamente anche le altre conseguenze, quella sull'euro, sempre l'Ops, pezzo a fianco, sempre pagina 3. E poi la spiegazione di Andrea Franceschi sulle imprese: la BCE sostiene il credito con la politica monetaria, lo stringe con la vigilanza. Vi ho dato una panoramica perché secondo me era importantissimo capire come da grandi decisioni di politica europea si arriva a piccole grandi conseguenze per le nostre vite. E Repubblica, pagina 25, che cosa succede? Le bollette crescono ancora. Questa però è una cosa che va spiegata. Abbiamo appena tirato il sospiro per la fine del mese dei 28 giorni e invece, eccolo qua, Luca Pagni: l'inverno caldo e le bollette, rincari in arrivo per l'energia. Effetto combinato, sentite, del blocco delle centrali nucleari francesi e delle condizioni climatiche che limitano che limitano eolico ed idroelettrico. E è giunto il momento di mitragliare un po'. Allora, quando leggo giornali mi piacciono le campagne, e il fatto, ora si è aggiunta anche la verità, sta mitragliando la Boschi su questa famosa notula, su questo costo di 1000 euro per un servizio fotografico che avremmo pagato noi nel suo viaggio in Canada, un servizio posato che raccontasse la spedizione, racconta Marco Franchi sul Fatto a pagina 6 e La Verità a pagina 3. E pensate, il quotidiano di Travaglio ha chiesto al segretario generale della Presidenza del Consiglio Aquilanti di poter visionare queste spese in omaggio alla trasparenza, e lui ha risposto che tutto è avvenuto secondo la legge. Sì, ma loro non hanno chiesto se è avvenuto o no secondo la legge, ma di poter visionare i dettagli. Però servizio fotografico in Canada continua a incombere sulla Boschi questo inseguimento. E c'è un nuovo avversario, prima pagina di Libero, per il povero Fazio, il milionario con gli ascolti a rischio. Giletti vuole dare il colpo di grazia a Fazio, l'annuncio sposta il programma la domenica per affondare il rivale. Ma questa è una cosa fantastica, le guerre puniche, bello, bello. Mattia Feltri che fa un fondo prezioso, sì, perché si è parlato tanto dei tifosi della Lazio, alcuni sono anche arrabbiati con me, ma non c'è niente da fare, dovevamo leggere le notizie, noi leggiamo le notizie, ragazzi. Però vi dicevo che praticamente, giustamente, Feltri ricorda tutte le volte in cui anche altri tifosi si sono macchiati di pagine vergognose, e sulla stampa in prima pagina, per chi vuole leggere un repertorio di infamie, i cori dei tifosi della Roma, gli ultra della Juve che hanno dato degli ebrei ai fiorentini, a San Siro gli interisti che hanno detto napoletani ebrei stessa razza stessa fine, e però anche la memorabile storia di quei tifosi del Verona che avevano quella canzoncina siamo una squadra fantastica sulle note di Zalone, fatta a forma di svastica, ma che bella è l'allena Rudolf Hess. Insomma, sono state cose tremende, così come parcheggiare le auto a forma di svastica. E ci sono tante cose interessanti, però noi ci dobbiamo fermare perché arrivano il giornale radio, le strade, e poi torno con i cani e con i gatti e le vostre telefonate. A Radio 24 c'è Luca Telese, una volta al mese. No, tutti i giorni di primo mattino c'è anche Oscar Giannino.